24 mattino. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Go, go, go. You mix up siciliano. Oh, you calabrese, do the mambo like a crazy weather. Hey mambo. Non ha risposto chiaramente sul fatto non andrò a Palazzo Chigi. Ah no, certo che no, tra l'altro io ricordo... Certamente no, lo ma giura... Ma io ricordo così a lei, ma lo ricordo certo, prima a me stessa, che io mi sto candidando per fare il sindaco di Roma. Non è un trampolino di lancio. Io sono stata per 3 anni... finisce il mandato, conosciuta. Beh, noi abbiamo in tutta la regola dei 2 mandati. Poi se... La sua esperienza politica finirà a poco più di 30 come... anni, arrivando come... al massimo del... Come eletta direi di sì. Hey mambo, mambo italiano, go go go, shake like italiano. Bello che se dice you get happy on the pizza when you mambo. Io non la conosco, quindi non posso né stimarla né giudicarla in gamba. A vedere da come si comporta, dalle cose che dice in televisione, soprattutto, ripeto, sempre non sul piano personale, ma su come lei immagina la Roma dei prossimi anni, non la stimo per niente. Su Salvini, lui sta passando il tempo a fare endorsement ai nostri candidati, illudendosi di spostare voti, ma i voti lei dice, non sono di Salvini, non sono ognuno di Grillo, non crede. Sono di Berlusconi, sì, non sono di Di Maio. Le persone che devono andare a votare domenica, per fortuna è brutto tempo in tutte le città di mare intorno a Milano, ecco. E quindi tanto vale rimanere a casa, andare a votare e allora può essere che vinciamo. Complimenti all'analisi politica di Parisi che dice siccome piove allora vinciamo le elezioni. 2 giorni fa aveva detto di lavoro faccio il sindaco di Milano, quindi puntini puntini, la frase proseguiva, una frase non proprio ben augurante per lui, insomma, però Parisi riesce sempre a far parlare di sé. Buongiorno a tutti da Alessio Maurizi, ho già detto anche nei giorni scorsi, From si può fare, tu 24 mattino sono in prestito, nel mentre che Alessandro Milan si gode le sue sicuramente meritatissime vacanze, ma rientrerà lunedì prossimo, così come da domani nel fine settimana tutti i tassellini torneranno al loro posto, perché io tornerò a condurre Si può fare, il buongiorno del weekend di Radio 24, domani alle 7.30 fino alle 10, così facciamo un po' anche di autopromozione. E buongiorno coloro i quali abbiamo tirato giù dal letto questa mattina, che sono Angelo Maria Perrino, ben ritrovato. Eccolo qua. Grazie. Direttore di Affari Italiani.it naturalmente, Mauro Corona, buongiorno. Buongiorno a voi. Corona in viaggio o è già arrivato, direzione, ne parleremo, il Festival della Lentezza, un appuntamento che mi sta molto a cuore, organizzato dall'Associazione dei Comuni Virtuosi a Colorno. Oggi, domani e dopodomani, 3 giorni di... Sì, sì, oggi, domani e dopodomani. Avremo modo... 3 giorni di lentezza, no? 3 giorni di lentezza. Non poteva fare un giorno solo, sennò che lentezza è. Bravo, come si fa a fare lentamente le cose bene, ma solo in un giorno. Qual è il momento della giornata che, Corona, se vissuto con lentezza, con calma, con serenità, ti dà... ti cambia proprio in meglio la prospettiva di vita, momento della giornata. Beh, direi il mattino, presto io mi alzo, non dormo, dormo pochissimo, quindi mi alzo che è ancora buio, ma ecco proprio quest'ora qui, tranquille, qui non c'è traffico, però non c'è neanche un'auto di quello che va al lavoro, sì. E quindi prepari la giornata, no? Io poi vado a bermi un caffè o me lo faccio a casa, sì. E per berlo ci metto stranissimo, ci metto 3 quarti d'ora a bere il caffè, uno dice ma non bevi freddo, certo, perché preparo tutto il programma senza aprire bocca, tutto in testa, quindi è un momento la mattina molto importante. Certo, è vero che se si riesce a fare quel passaggio, svegliarsi la mattina, ritagliarsi il tempo per godersi l'inizio della giornata, tutto cambia sapore, si legge il giornale con calma, si gusta il caffè, cambia tutto, però bisogna fare quello sforzo che è alzarsi il mattino. Perrino, i giornalisti in genere vanno sempre di corsa, che senso ha per te, ha senso parlare di lentezza? Ma diciamo che per me è un grande desiderio irrealizzabile, perché appunto i giornalisti corrono, i giornali online come Affari Italiani devono essere in tempo reale, quindi noi viviamo di fregola e di adrenalina. Just in time. È il famoso giorno della pancia. consentito anche a noi di muoverci con lentezza. Però è vero che tutta, anche per noi che facciamo questo lavoro, tutta questa velocità a volte rischia di essere, cioè bisogna essere veloci, però c'è bisogno anche del momento in cui ci si ferma, si analizza, si cerca di capire, si approfondisce, si verificano le fonti, perché poi la gente ci accusa di essere troppo superficiali, quindi la lentezza in questo caso può essere anche una buona consigliera per il giornalista. Deve analizzare, ma in modo veloce. Cioè, da direttore capisco che farti parlare di lentezza non si può. Attivare il cervello in modo che sia sempre connesso e sempre lucido e veloce. Chi ci riesce vince, chi non Beato lui. Cambia mestiere. Allora, purtroppo sono giorni difficili, le notizie non ci aiutano e io vi voglio chiedere di commentare quello che è successo ieri in Gran Bretagna. La deputata inglese, lo sapete, Jo Cox, è stata uccisa da un uomo, insomma, 52 anni, ancora non si capisce bene perché sia entrato in azione, ma insomma avrebbe gridato Britain first, prima la Gran Bretagna, a proposito del voto sulla cosiddetta Brexit. Insomma, si tratterebbe di un omicidio a sfondo politico. Questa giovane donna, neanche 42 anni, aveva lavorato a Oxfam, Save the Children, due importanti organizzazioni non governative, era impegnata a favore dell'accoglienza, dei profughi, sul conflitto siriano. L'immigrazione è una delle paure che dominano il voto inglese e che agitano gli inglesi alla vigilia di questo voto su Brexit. Corona, lei più volte ha detto che l'immigrazione è una risorsa, che bisogna fare di tutto per cercare di capirlo, però continua a fare anche tanta paura, molta paura. Perché? Beh, è certo che gli esaltati ci sono sempre stati. Io ieri è toccato a questa deputata, mi diceva, no? Però sì, anche l'altro giorno hanno ucciso una cantante, una giovane, hanno ucciso John Lennon, cioè il pazzo, quello che non sopporta che uno abbia successo, che sia di... c'è sempre stato questo, però non ha il caso isolato, che ahimè è terribile, ma è sempre non ha niente a che fare con questo esodo biblico che non sarà arrestabile in nessun modo. Quindi dovremo rassegnarci e porre rimedio a fare i conti con questa cosa storica che resterà negli annali della storia, resterà di questa emigrazione. Il problema qual è? È che non hanno idee, non sono, cioè mettono toppe, avanzano, azzardano ipotesi, facciamo così, ma non sanno in realtà che fare, perché il numero è talmente grande che anche se ne rimandi a casa uno, questo sarà il problema del futuro. È anche proprio questo, non sapere che fare, anche a proposito della classe politica, sicuramente è una cosa che mette ansia, mette agitazione, può anche spingere, scavare nella mente di alcune persone disturbate, sicuramente, perché si pensa sempre alla follia umana, al gesto di un folle ogni volta che c'è un attacco, un attentato terroristico, anche se c'è uno sfondo politico. Su questo sono d'accordo con Corona. Perrino, quali conseguenze però potrà avere questo gesto invece su un fatto concreto come che sarà il voto, poi il comportamento elettorale degli inglesi quando dovranno andare nell'urna e dire se rimanere dentro l'Unione Europea o uscire? Ma sempre, come abbiamo scritto su Affari Italiani, sempre questi episodi, che siano terroristici in senso classico, che siano figli delle suggestioni di animi poco stabili, comunque hanno un effetto molto forte sulle pubbliche opinioni. In questo caso si capisce che costui era contro l'uscita dell'Inghilterra, era perché l'Inghilterra esca, quindi era contro la Brexit, e probabilmente tutto questo determinerà effetti proprio di questo tipo. La campagna referendaria è stata sospesa e coloro che sembrano in caduta, che invece vogliono che l'Inghilterra resti in Europa, rischiano di finire in minoranza proprio perché trasportati da ondate di questo tipo. L'eccidio potrebbe forse scatenare un effetto opposto, potrebbe al contrario produrre gli effetti diversi da quelli voluti da questo signore improvvisamente impazzito. Anche lui ha un curriculum di persona tranquilla, di uomo dedito al volontariato, ma è da stabilire. Intanto ancora è da decifrare bene se costui era un cane sciolto, certo, o comunque avesse dietro organizzazioni, perché frequentava gruppi di estrema destra che sono poi figli di quest'ansia diffusasi in Europa e indotta in quelle frange proprio dall'immigrazione incontrollata. Intanto gli ascoltatori al 349-238-6666 si stanno svegliando anche loro piano piano e vi salutano. Corona e Perrino, Massimo da Cuneo, che saluta me e i miei ospiti, quindi voi. Un abbraccio a Corona, scrittore roccioso, e va bene. Parliamo però anche, ecco sì, l'ultimo giorno insomma di campagna elettorale, sicuramente un argomento che alleggerisce, perché l'ho detto in questi giorni più volte, è il minore dei mali sicuramente che abbiamo in questo periodo, quello della politica italiana. Si va a votare per il rinnovo dei sindaci, i sindaci sono comunque ancora una carica che ci sta abbastanza vicina. Che aria tira, Perrino, attorno a questi ballottaggi? Per esempio partiamo da Roma, la Raggi ha un bel vantaggio, non c'è partita. Noi con Affari abbiamo seguito in questa settimana un po' i sentiment nei partiti, si dà per fatta la vittoria dei grillini. Ma neanche l'endorsement, cioè l'attacco di D'Alema a Giachetti, a Renzi, un attacco che ovviamente finisce per essere un boomerang, no? Perché ormai credo che nella mentalità di chiunque D'Alema è associato al vecchio politico trombato, con tutto il rispetto, però che non ha più molto da dire. Neanche questo... capisce peraltro questo attacco, è vero, un complotto, è una trappola contro D'Alema, una trappola contro Renzi, non si capisce questo articolo di Repubblica da chi sia stato un po' ispirato. Certo è che qualcuno dice che sarà un ottimo alibi che consenta di dire a Renzi è tutta colpa di D'Alema, abbiamo perso perché D'Alema ha remato contro. Ecco, potrebbe essere questa una spiegazione ex post. A Milano invece si vincerà, io credo, per un soffio. Sala ha cercato nelle ultime ore di smuovere un po' la situazione, che lo ha visto sostanzialmente il candidato, anche se in testa, sconfitto al primo turno, perché tutti si aspettavano un vantaggio molto maggiore. Quindi ha fatto questi annunci, Gherardo Colombo, Emma Bonino, Linus addirittura. Parisi sembra invece quasi accontentato del risultato che ha ottenuto fino ad ora. Sornione Parisi è un buon passista. Sala ha dilapidato un vantaggio molto forte, Parisi non lo conosceva nessuno, Sala invece godeva della popolarità dell'Expo, e oggi siamo forse l'unica città su cui c'è incertezza, c'è un testa a testa. Azzardami un pronostico però, dai. Io, guarda, giudicare dalla tenuta fisica dei due contendenti, dico Parisi, vedo Sala molto sfiancato. Vedi Sala sfiancato fisicamente, e quindi questi annunci, sarebbero rivelati, non ce la faccio da solo, e allora sparo i nomi della Bonino, di Linus. È tipico sul finale della campagna elettorale, di solito i candidati meno lucidi perdono proprio la trebisonda, come si dice, cioè non capiscono dove vanno, dove si trovano, gli staff mettono in tasca bigliettini per tenerli lucidi. Ecco, mi pare che da questo punto di vista Parisi è un maratoneta politico elettorale più solido, forse questo fino a domenica potrebbe rappresentare quel piccolo vantaggio in più. Corona, lei è uomo di passioni sicuramente, quanto è stata eccitante questa campagna elettorale? Io per esempio dico solo, mi hanno suscitato qualche emozione, parlo di emozioni, non di interesse per l'analisi politica che ci può essere stato per quella o quell'altra cosa, un paio di situazioni. Una è il successo di De Magistris a Napoli, che trovo una cosa sorprendente da capire, un fenomeno che mi ha colpito. E poi le proposte della Raggi, il candidato di Roma, che ha parlato di cose che per esempio a me piacciono, come anche a Si può fare, ne parliamo a Radio 24, dalla proposta della funivia a quella della moneta complementare, il baratto, una visione, l'uso dei pannolini lavabili, no? Sembrano bischerate, però sono piccole cose concrete che possono anche smuovere delle situazioni. Sono cose che mi hanno colpito. Lei, Corona, è rimasto colpito da qualcosa in particolare? Ma no, sono appassionato di politica come del calcio, come, cioè, quindi, diventa quasi le votazioni diventano quasi un'olimpiade, un'olimpiade della politica. Sì, posto il fatto che non mi si venga a dire che un sindaco o l'altro risolverà i problemi di Roma, quelli di Milano, quelli no, è malata le città sono malate ed è malata anche la gente. Perché se l'immondizia è lì, ha capito che non ci sono i servizi, ma se occorrerebbe ognuno di noi mettere la nostra tesserina. Invece si vota una persona a fare il sindaco e poi giù si scarica su di lui tutto. Bisogna collaborare con le persone e non è facile. Io vorrei che fra 5 anni ci risentissimo di nuovo a vedere se è cambiato nulla a Roma, perché io direi questo ai candidati. Niente chiacchiere, io faccio questo, non faccio le Olimpiadi. Potrei essere anche d'accordo, io faccio, vabbè, non dite niente, ci vediamo qui fra 5 anni e voglio vedere cosa è fatto. Beh, ma che facciamo? Siamo 5 anni in silenzio, in attesa, in ossequio alla lentezza. No, sentite, così si lavora, sì. Tutte queste chiacchiere, Parisi che dice, Sala che dice io so fare, per cui io, quando dici, ma Claudio Magris mi disse una volta non usare mai la parola io. Quindi io so fare, ma chi l'ha detto? Vediamo, a me, io sono un uomo di sinistra, istintivamente dovrei parteggiare per Sala, ma non mi piace, non ha una faccia torva che non mi convince. E tra l'altro, se volevo fare un pronostico, vincerà Parisi a Milano. Una faccia torva. Complicata, questo burocrate questo, che ha la casa, poi ha una cioè, non dicono mai quello che hanno. Una. Cioè, non me la dai da bere, non me la dai, ma succede però che tutti vanno a votare perché ormai siamo affezionati ai nostri partiti, come chi tiene al Milan, chi all'Inter, chi all'Udine. Sì, c'è una componente di tifo. Però non si risolve niente. C'è una componente, scusate la rima brutta, c'è una componente di schifo da parte di chi non va a votare e di tifo anche da parte di chi va a votare, che diventa quasi più, è vero questo, un'abitudine, si va perché si sostiene la propria parte, ma non per grosse convinzioni. Effettivamente questo è quello che si sente anche parlando in giro con tanta gente. Adesso facciamo una pausa sul traffico, vi anticipo come siete messi con l'Italia. Stasera gioca l'Italia di Conte. Corona, ha visto qualche partita? Tutte. Solo quando ci sono i mondiali e gli europei. Le squadre, diciamo, italiane le guardo poco, ma qui sono fanatico. Vedi, è il tifo, riviene fuori il tifo. Io ero stato buon profeta l'altra mattina, ti ricordo, sì, ho detto sì, che vincerà Conte, quindi vediamo di essere altrettanto buoni profeti oggi. Ecco, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. Mattino. Galera, i regni finiscono tutti prima o poi. Anziché fate la fine di quello francese, beh, tagliamo proprio la capoccia a tutti quanti. Brutti zozzi, ancora se presentano a fare pubblicità al PD. A Raggi secondo me va bene, per adesso. Poi vediamo dopo che ha fatto. Va bene, questo è un grande classico, i romani infuriati con i politici. Era Matteo Orfini, il credo presidente del PD a Roma, insomma lo sapete, politico di livello nazionale, che nel suo classico giro ai mercati a prendere qualche voto per Giachetti si è preso soprattutto qualche insulto, ma insomma questo credo che accada un po' a tutti, i politici che vanno a raccogliere voti in quel modo lì, ma del resto si fa così in campagna elettorale, perché poi se vai nei mercati ti insultano, se non ci vai dopo ti dicono non è andato nelle periferie, allora non si sa mai cosa fare a essere nei panni di un politico. Ma parlavamo dell'Italia di Conte, vi è piaciuta questa squadra? Una buona difesa, centrocampo di piccoli corridori, Giaccherini, Candreva, Perrino, ti piace questa Italia di Conte? A me sembra una squadra che non ha grandi individualità e quindi ha sopperito, grazie a un allenatore volitivo e coriaceo come Conte, che ha nella salentinità questi tratti molto grintosi, appunto con il team. E mi ricorda molto la nazionale di Berzot, che era partita appunto con dei giovanotti poco conosciuti e poi si trovò per le mani l'esplosione di un Paolo Rossi che gli dammo gol a ripetizione a squadre che erano l'Argentina grandissima, il Brasile, la Germania e poi diventammo campioni del mondo. e vedo delle analogie e spero che esploda un nostro nuovo Paolo Rossi. Ti vedo lanciatissimo. Questo paragone con l'82 è secondo me un po' forte, però provo a venirti dietro. Corona, invece, c'è un simbolo di questa Italia che svetta, Conte stesso, come diceva Perrino, oppure proprio il gioco di squadra? Quindi diciamo non c'è un simbolo incarnato da parte di un giocatore in particolare? No, non c'è un simbolo, ma lo si aspetta. E quello che vorrei dire io, che mi preme invece, è che prima della partita erano dei poveri diavoli, poi hanno vinto e con merito. E sono tutti eroi. E con tutti, no, il problema è che se adesso si dovrebbe stare zitti, il problema è il silenzio. Diceva Juan Rulfo, le uniche parole degne di rimanere sono quelle migliori del silenzio. Invece si è fatto, ovviamente i giornali devono scrivere qualcosa e vendere, ma la televisione, mettiamo che vada male la prossima, cioè, calma, aspettiamo alla fine. Ecco, invece hanno già ormai, ma i giocatori stessi, noi così, noi state buoni, io sarei molto cauto prima di fare gli eroi, aspettiamo almeno 2-3 partite, no? Sì, io sì, ho grande fiducia, avendoli visti, ho grande fiducia, però subito esce fuori una ragazza, vince il coso dei cantanti, lì come si chiama, e avanti, si tende subito a porre in alto. Vedi, Corona, si torna al concetto di lentezza, e su questo sono d'accordo, ma come non essere d'accordo con questa analisi? Ci vuole un po' di calma, di lentezza, e quindi di dare tempo al tempo, insomma, sono banalità, ma è così. Mettiamoci la seconda vittoria con la Svezia, e poi cominciamo... Sulla velocità, lo so, però almeno due partite in fila bisogna metterle, come ha fatto la Francia. Invece la Germania ieri si è fermata sul pareggio. Corona, voglio di individualità, sì. Posso dire sì. Che abbiamo scritto su affari, i bookmakers puntano su un grandissimo Giaccherini, e noi in Italia l'abbiamo forse sottovalutato, come si ricorderà, era nella Juve, poi certo. Nel Bologna, dimenticato. Conte lo considera un suo amico, uomo fiducia, e ha fatto un gol secondo me sensazionale, bellissimo, sì. Lo stop era con questo piede morbidissimo, ha inchiodato la palla per terra in modo straordinario, e quindi Giaccherini, Bonucci forse merita una citazione, quell'anno. Beh, Bonucci straordinario, poi per la grinta che ci mette, la convinzione, avercelo come avversario non lo auguro a nessuno, perché quel lancio che ha fatto per i gol di Giaccherini, sì. Mi ha ricordato il migliore Luisito Suarez della grande Inter di Herrera. Vabbè, ma sei in vena di paragoni straordinariamente incredibili. Corona, voglio chiederle questo, perché gli europei sono anche per ora stati, ahimè, quelli del tifo violento, gli hooligans russi in azione, facce veramente inquietanti. C'è la questione dell'alcol. La Francia, le autorità un po' in ritardo sono arrivate a vietare l'alcol, ma si può spiegare un'aggressività come quella lì? E sono cose represse che hanno dentro gli uomini, non il pretesto è il calcio, ma potrebbe essere la riunione dei grandi, oppure la riunione della CGIL, mettiamo, cioè ci vogliono dei pretesti, per questa sono cose personali che messe però in gruppo diventano pericolose, tremende, e repressioni loro, sono la guerra, del resto siamo noi con molte eccezioni, cioè qui hanno ucciso i gatti dei vicini che attraversavano il cortile, le nostre piccole insoddisfazioni che ingigantiscono. De Gregori cantava la storia siamo noi, la guerra siamo noi anche, con migliaia di eccezioni, per carità, e chiedo anche scusa, ma ce la leghiamo al dito, nel nostro piccolo, nel nostro cortile, e questo ingigantito genera questo stress, queste direi repressioni e depressioni che alla fine devono sfogare da qualche parte. Quindi alcol o non alcol si sarebbero sì, sfogate? Sì, provano comunque, fanno ridere di non... Cioè, può essere come esempio una cosa da fare, ma vedrete che l'alcol lo troveranno e faranno ancora casino. Perrino, per la Francia però abbiamo pochissimi secondi, non è un bel momento, è un calo momentaneo o è proprio in crisi un paese? Non lo so. È un paese, sì, in grandissima crisi di identità a un presidente Hollande molto poco amato e molto poco efficace, sembra un ragioniere in cerca di, no? Non ha più la grandeur, le vicende del terrorismo hanno azzoppato fortemente Parigi. Chissà se i risultati calcistici favorevoli per ora aiuteranno a ritirare sulle sorti della Francia. Io ricordo solo Mauro Corona, l'appuntamento al Festival della Lentezza a Colorno. A che ora oggi? Alle 18, io visto che c'è, annunci il libro nuovo almeno. No? In due secondi però, devo chiudere. Sì. La via del sole, uno che distruggeva le montagne per avere il sole più alto. Grazie. Esce domani. Benissimo, grazie Corona, grazie Perrino. Buona giornata, buon venerdì, buon sabato, buona partita a tutti, buon weekend. Noi ci risentiamo dopo il GR con la rassegna stampa. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Mattino. E eccoci qua di nuovo. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, da Si può fare a 24 mattino per questa rassegna stampa, l'ultimo giorno di questa settimana. Mentre Alessandro Milan è in vacanza, ciao Alessandro, goditela ancora perché lunedì torni al tuo posto, così come noi domani torniamo al nostro posto. Nel weekend Si può fare dalle 7.30 fino alle 10 il sabato e dalle 8.30 la domenica mattina. Allora, rassegna stampa 349-238-6666, se volete scriverci anche su WhatsApp i vostri commenti. Stavo guardando cosa c'è sui giornali a proposito delle ultime ore di campagna elettorale per i ballottaggi. Pochissimo si può dire, una campagna elettorale che finisce in tono calante, abbastanza moscia, con gli strascichi un po' delle questioni che si erano aperte già nel primo turno, quindi insomma gli appelli, gli ultimi appelli nelle città principali, Roma, Milano e Torino. Ma al di là di questo, giornali di oggi che si occupano dell'omicidio in Inghilterra della deputata laburista Jo Cox, è il titolo principale di tutti i giornali. Brexit, sangue sul referendum, uccisa donna simbolo del Labour, scrive Repubblica. Sangue sulla campagna anti-Brexit, uccisa una deputata europeista, Cox, preso un uomo, gridava slogan nazionalisti, comizi sospesi, è il titolo del Corriere. Cameron, il premier inglese britannico, che dice è una tragedia, sospesi appunto i comizi elettorali, almeno per ora la Gran Bretagna si stringe unita in questo momento di dolore, di rabbia, di follia. Londra, la stampa, sangue sul referendum, lo stesso titolo di Repubblica, uccisa deputata laburista anti-Brexit, il killer le ha urlato prima la Gran Bretagna. Il Sole 24 Ore interpreta questa notizia, come sempre, dando una struttura e un peso anche economico. Dopo l'agguato in Inghilterra, la deputata laburista e i listini limitano le perdite. Piazza Affari chiude a meno 0,98%. Brexit, corsa ai beni rifugio. Oro ai massimi da due anni a questa parte, Bund invece ai minimi e lo spread che va a quota 157. Tre colpi di pistola, questo è il giornale, tre colpi di pistola contro una donna salvano l'Europa. Qua si salta direttamente all'interpretazione e l'interpretazione è quella di un omicidio politico che indirettamente è una manna, secondo il giornale, per i pro-europeisti, perché l'ondata di commozione, di sdegno per questo attentato al grido di prima la Gran Bretagna depotenzierebbe le potenzialità elettorali del Brexit. Una interpretazione che è quella anche fatta da il deputato ex grillino, adesso GAL, Bartolomeo Pepe, che un po' su tutti i giornali di oggi, il suo tweet che poi è stato cancellato perché è un autogol, insomma è una cosa che non gli è scappata, gli è uscita male, ma lui ci ha abituato a queste a questo e a altro. Scrive su Twitter Bartolomeo Pepe: Joe Cox, colpire uno per educarne 100. Ma l'interpretazione che poi ha dato, mettendo una toppa che era peggio del buco, era proprio quella di dire il terrorista per logica colpisce sempre in maniera che l'effetto sia favorevole a quello che gli serve. Chi ha ucciso la Cox voleva sostenere la sua causa, e anche in questo caso l'interpretazione un po' complottista è che ci sia un mandante, le banche, Bilderberg, le multinazionali, i burocrati europei, che uccidendo, avendo voluto uccidere, e questa è un'accusa terrificante, appunto complottista, tipica di certe mentalità, ma insomma va presa per quello che è, un punto di vista, uccidendo la Cox avrebbero dato una mano alle tesi anti-Brexit. Per il momento è morta una donna, è morta una deputata laburista, una signora di appena 42 anni, figlia di un operaio, una donna che aveva lavorato a Oxfam e a Save the Children, organizzazioni non governative internazionali tra le più importanti al mondo, che cercano di fare del bene, che si occupano di bambini, anche di profughi. E lei era molto preoccupata per il conflitto siriano. Leggiamo da il Corriere della Sera il personaggio Fabio Cavalera, famiglia della working class Laura a Cambridge, la vita spezzata di Joe, dall'Africa al Parlamento, in Afghanistan, in Sudan, in Uganda. È vero, ho visitato le zone di guerra, mi sono trovata in situazioni terribili, diceva Joe Cox, 42 anni da compiere, il giorno prima, tra l'altro, del referendum sulla Brexit. Non era nata con la politica nel sangue, è diventata parlamentare laburista nel 2015 in un collegio del West Yorkshire, tradizionalmente di centrosinistra. Era figlia della working class inglese, il papà operaio in una fabbrica di dentifricio e la mamma segretaria di scuola. Ma il suo impegno è sempre stato nelle organizzazioni non profit, Oxfam Save the Children. La Cox era particolarmente coinvolta nella questione siriana, presiedeva il comitato parlamentare degli amici della Siria, non aveva votato a favore dell'intervento britannico e dei bombardamenti, ma nemmeno contro, come chiedeva Jeremy Corbyn, il segretario di sinistra del Partito Laburista. Si era astenuta perché credeva giusto l'impegno contro l'ISIS, ma altrettanto giusto l'impegno contro il dittatore Assad, e parallelamente una politica seria di aiuto alle popolazioni. Viene a dire, come darle torto? È il motivo per cui aveva confessato la sua grande delusione nei confronti del presidente americano. Ho un'ammirazione sconfinata per Obama, diceva la Cox, ma sulla Siria ha sbagliato tutto, mi ha lasciato l'amaro in bocca. Questa era il personaggio, la donna. Allora poi vediamo anche sugli altri giornali. Il marito ha detto: Joe era una donna che credeva in un mondo migliore, lottava per questo scopo ogni giorno. Ora vorrebbe una sola cosa, che lottassimo tutti uniti contro l'odio che l'ha uccisa, perché l'odio non ha credo, razza o religione, l'odio è velenoso. E anche qua mi sentirei di dire che questa frase è assolutamente condivisibile, sostenibile, siamo tutti con lui, col marito di Joe Cox, con lei e anche con lui. Nessun riferimento, vedete, ai temi della campagna elettorale, di Brexit, non Brexit, eccetera, ma semplicemente contro l'odio che ha spinto sicuramente questa persona di 52 anni al grido, probabilmente, ma non è ancora confermato, prima la Gran Bretagna, appunto, è partito l'assalto, l'attacco nei confronti di questa donna. Ancora le frasi: abbandonare l'Unione Europea sarebbe un salto nel buio per la nostra economia, per l'occupazione, per le nostre comunità, diceva. Faccio campagna contro la Brexit perché se rimane nell'Unione Europea la Gran Bretagna sarà più forte e sicura. Posso capire che molti di voi siano preoccupati per l'immigrazione, ma uscire dall'Unione Europea non è la risposta. Quindi non negava nemmeno che l'immigrazione, i profughi, per cui lei comunque si era impegnata e battuta, potessero creare dei problemi, ma diceva non è uscire dall'Unione Europea la risposta. Capisco, poi diceva, i genitori siriani, io rischierei tutto, anche la vita, per portare mio figlio fuori dall'inferno della guerra in quel paese. A proposito della uscita o no della Gran Bretagna dall'Unione Europea, una notiziola che riguarda la Svizzera, perché non so quanti di voi sapranno che 22 anni fa la Svizzera aveva fatto domanda d'ingresso nell'Unione Europea, ma adesso questa domanda verrà abbandonata perché questo è il risultato delle ultime decisioni nel paese svizzero. La Svizzera deve ufficialmente ritirare, scrive il Corriere, la domanda di adesione dall'Unione Europea inoltrata 22 anni fa. Lo ha deciso il Consiglio degli Stati, la Camera Alta e il Parlamento svizzero, approvando una mozione del partito di destra, UDC, già accolta dal Consiglio Nazionale, che è la Camera Bassa, a marzo. La domanda di adesione della Svizzera è considerata superata, non figura più tra gli obiettivi della Confederazione, ma per i favorevoli a questa mozione si tratta comunque di inviare un segnale chiaro al popolo. E resisteremo alla mancanza della Svizzera nell'Unione Europea, sicuramente, molto più di quanto invece potrebbero essere le ripercussioni su un eventuale Brexit. Andiamo su altri argomenti, altri titoli. Per esempio, gli incendi in Sicilia sono il secondo titolo principale sulla Repubblica. Il fuoco assedia Palermo, atti dolosi e criminale. Che diavolo succede in Sicilia? Vabbè, succede che ci sono stati solo ieri 500 focolai di incendio in tutta l'isola, una epidemia, verrebbe da dire, da Agrigento a Trapani a Palermo, passando per Cefalù. Alle 4 del pomeriggio, scrive Repubblica, Sandra Ziniti, alle 4 del pomeriggio, vista dalle falde di Monte Pellegrino, Palermo sembra una città in guerra. Il cielo è una cortina plumbea, il bagliore dei roghi si alterna a colonne di fumo nero pece. Le esplosioni all'interno di case raggiunte dalle fiamme inseguono le sirene delle ambulanze. È ai forestali, che si guarda tradizionalmente per questi incendi, oltre che alla mafia ed altre possibili cause dolose, che si guarda per questi incendi che sono stagionali. Ad ogni inizio estate avvengono, sarebbero loro che cercano l'assunzione periodica a molti di loro criminali a piccare questi incendi. Ma stavolta i primi 6.500 stagionali in attesa di chiamata erano già stati assunti. E allora, a chi attribuire questi incendi? Chi mette a ferro e fuoco la Sicilia? Anche il presidente della regione Crocetta punta il dito contro le speculazioni edilizie sui terreni bruciati, la mafia dei pascoli, o magari, sempre guardando nel variegato esercito dei 23.000 forestali siciliani, la vendetta di quanti, sono 280, sono stati licenziati dal governo regionale un paio di mesi fa, 280 licenziati su 23.000. È comunque una cifra importante. Pensate che tra questi licenziati ci sono 17 condannati in via definitiva per mafia e anche per aver appiccato incendi, cioè gente proprio beccata in flagrante, condannata in via definitiva, sono stati licenziati. Evidentemente la legge del più forte è tale che loro devono imporsi e quindi impongono la loro volontà appiccando questi incendi, ed è una cosa che questa sì meriterebbe, non dico l'esercito, sì meriterebbe l'esercito, adesso dico una cosa forte, è quando li peschi però con le mani nel sacco devi dargli una pena reale salatissima, perché qui rischia di morire della gente. Però non è successo, ma il rischio c'è sempre che questi incendi vadano fuori dal binario di una semplice speculazione o provocazione. Ci fermiamo per un attimo, torniamo tra pochissimo. Mattino. Di nuovo buongiorno a tutti, da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. 349-238-6666. Un ascoltatore che non si firma dice: allarmi incendi in Sicilia con 23.000 forestali, dovrebbero avere un estintore ad ogni albero. Già, è vero, è verissimo. Invece molti di questi, stando a quello che dicono anche le inchieste e le condanne che li hanno condannati, sono lì ad appiccare incendi per procurarsi un lavoro. Una follia assoluta. Un'altra ascoltatrice dice, o ascoltatore, che se, vediamo se si firma su WhatsApp, Pierpaolo da Bologna: rischiano di morire delle persone. Sì, ma le persone hanno modo di scappare, perché non si parla mai delle migliaia di animali che muoiono bruciati vivi in questi incendi? Beh, anche gli animali hanno la possibilità di scappare, così come le persone. Preoccupiamoci sia delle persone, sia degli animali, sia delle persone. Cioè non ci dimentichiamo delle persone, ci dimentichiamo di nessuno. è una follia e basta questa degli incendi. Ma andiamo velocemente anche su altri argomenti. Il Corriere titola, il secondo titolo principale è quello: tra i combattenti a Sirte, l'ISIS qui non fa prigionieri, reportage dalla città libica. È interessante, Lorenzo Cremonesi, inviato in Libia a Sirte, è interessante perché qui si sta combattendo una battaglia per liberare la città dove era nato Gheddafi, città simbolica importante per la Libia, dalla presenza dell'ISIS. Intanto il reportage comincia così: alla luce dolce rosata del tramonto, repentino come in ogni stagione nel Medio Oriente, gli uomini dalle divise raffazzonate dei due eserciti, che di regolare hanno solo l'aspirazione a esserlo e che sino a un minuto fa sparavano gli uni contro gli altri, corrono ad accovacciarsi tra le macerie sulle stuoie improvvisate stese al riparo dai muri sbrecciati, nei cortili ingombri di mobili spezzati, eccetera eccetera. Iniziano a consumare la cena che da sempre rompe il digiuno del Ramadan. Cambia poco che siano giovani volontari di Misurata, cioè l'esercito regolare, o veterani della Jihad, cioè quelli dell'ISIS, arrivati dalla Tunisia, dall'Algeria o dalle montagne verdi della Cirenaica. Tutti nei bivacchi improvvisati iniziano coi datteri, il dolce tradizionale che garantisce subito energie, poi yogurt, riso con l'uva passa. Le stesse preghiere, gli stessi gesti di rito, lo stesso Dio, simili eppure diversissimi, tutti musulmani ma nemici giurati. Questo per dire il ruolo della religione in questo conflitto contro l'ISIS. Qua si combattono due fazioni, l'esercito regolare e quelli dell'ISIS, ma sono entrambi musulmanissimi, islamicissimi, ma ovviamente tutto il resto è diverso. L'intervista poi ad uno dei comandanti delle truppe regolari, che manda un messaggio all'Italia. Intanto fanno capire che la battaglia non è ancora finita a Sirte. Alle grida di vittoria lanciate dai responsabili dell'esercito regolare di Sirte, di Misurata, scusate, una settimana fa, va aggiunto che i combattimenti potrebbero durare ancora a lungo, scrive Lorenzo Cremonesi. Sirte potrebbe cadere solo alla fine del Ramadan, la seconda metà di luglio, dice Anwar Sawan, uno dei massimi capi del Consiglio Militare di Misurata, il quale non lesina critiche all'Italia. Roma ci promette aiuti a parole, ma in pratica fa molto poco. Persino il programma di assistenza ai nostri feriti va a rilento. Ne avevamo inviati a Roma 27, sono stati rifiutati dai vostri ospedali. Il vostro premier Renzi non si aspetti la nostra collaborazione, eccolo lì, per bloccare i migranti. Ai ai ai, poche settimane fa ne abbiamo espulsi oltre 600 verso i nostri confini meridionali a sud, cioè altri 62 sono in carcere, ma nel futuro non saremo più pronti a rimandarli alle loro case in Africa. Vedete, l'avvertimento che manda l'esercito che sta combattendo l'ISIS in Libia all'Italia è: se non ci aiutate, noi col cavolo che faremo il filtro, come voi sperate, alla partenza degli immigrati dalle nostre coste verso l'Italia. Sole 24 ore, Mauro Meazza, ultimo appuntamento per me, venerdì, io poi torno alle mie faccende, Mauro, però possiamo dire che anche tu hai dei cambiamenti da annunciare, piccoli, la settimana prossima. Molto molto piccoli, no, settimana prossima infatti non saluterò il rientro di Alessandro al suo posto, solo settimana prossima, perché impegnato altrove con la concorrenza. Ma mi chiami anche sabato e domenica, no? Perché possiamo fare qualcosa. Sei in onda anche sabato e domenica. Vediamo. Ma anche no, se vuoi ti sì, no, ti lascerei in pace, ti lascerei in pace. Ore sì. Per sabato e per domenica. Beh, sabato ad esempio, come ben sai, noi offriamo con il Sole 24 Ore Plus, che è il settimanale per il risparmio. E a questo proposito, non è che tu, essendo magari più affluente, come si dice, di Alessandro, hai magari le banconote da 500 euro in tasca? Che mi avanzino in questo momento? No, non per chiedertele, è un'informazione. Beh, perché alcune banche, presumo di no, alcune banche, oggi riferiamo sul Sole 24 Ore nelle pagine di finanza che sempre vanno lette, come sai, avidamente. Riferiamo che alcune banche avevano rifiutato di ritirare banconote da 500 euro, l'utilizzo di banconote da 500 euro da parte dei clienti, perché in futuro, cioè tra due anni, queste banconote non verranno più stampate. Ma la Banca d'Italia ha fatto una nota, ha diramato una nota per dire: no, guardate che comunque queste banconote hanno pieno corso. Quindi ti volevo tranquillizzare per quelle numerose banconote da 500 sì. euro che tu hai. Adesso controllo quante decine ne ho. Sicuramente in tasca, ecco, puoi tranquillamente recarti in banca con la banconota da 500 euro. Di Rita ti ho già parlato in questi giorni. Come sta Rita? Sta bene? Rita sta benissimo, sta, come sai, prendendo forma, come sì. Si dice, perché sono tutte ipotesi, ma invece oggi non ci sono solo le ipotesi su Sole 24 Ore, perché riepiloghiamo le altre strade che consentono di anticipare la pensione, tra cui ad esempio la isopensione, che non so quanti conoscano, però è una forma appunto che consente di anticipare il ritiro della pensione. Ce ne sono anche altre, esiste anche una pensione di anzianità, ma bisogna avere molti molti anni di contribuzione. Tutti i particolari nelle primissime pagine del Sole 24 Ore. Poi sappi che ieri è stato il Tax Day, come è noto, quindi giornata di grande festa, no, nel senso che c'erano parecchie scadenze fiscali tutte insieme e il grande festa è ovviamente ironico. Ma per il futuro, come riferiamo su norme e tributi, si immagina di non fare più questo insieme di scadenze tutte in un solo giorno, tutti particolari questa volta su norme e tributi. Hai visto che il nostro titolo è Corsa ai beni rifugio, come sì. ne hai riferito prima. Ecco, ti vorrei segnalare ancora nelle pagine di finanza, guarda un po', che anche il cacao, per certi versi, sta diventando quasi un bene rifugio, cioè sta ai massimi da 5 anni per una complessa questione di titoli del cacao, di cui riferisce da par suo Sissi Bellomo proprio sulle pagine di finanza, che come sempre tu leggerai avidamente. Oh, bravissimo. Invece quali non mi attributi? Religiosamente. Va bene. Religiosamente. Ecco, quelle che stanno proprio nella parte iniziale, come le pagine del primo piano, degli argomenti più importanti, leggile sempre, perché ovviamente fa molto bene. Ti voglio dire in ultimo, ma non per questo meno importante, facciamo anche una specie di riepilogo della riforma della pubblica amministrazione. Allora, i furbetti del cartellino, famosa norma per la licenziabilità del dipendente pubblico scorretto, che appunto timbra poi va altrove, sappiamo che è arrivata in porto, ma in realtà ci sono ancora parecchi decreti che devono essere completati. Rating 24, rating bellissimo. Siamo proprio lì. Rating 24, vediamo a che punto siamo dell'attuazione della riforma Madia, i decreti che sono già più o meno abbozzati e quindi dovrebbero arrivare a breve, e quelli che invece sono più in là nel tempo. Tutto il riepilogo in una intera pagina oggi del Sole 24 Ore. Infine, dico, se vuoi ci sentiamo anche domani, ma intanto ti dico già oggi che se non ti sei opposto alla cartella esattoriale della multa in 30 giorni, mi spiace, ma non c'è più niente da fare. Lo riferiamo, lo ha spiegato purtroppo il giudice, e lo riferiamo in norme e tributi. Come mai ti parlo di multe proprio adesso? Per intristirmi definitivamente il weekend. Ma no, perché invece voglio utilizzare il mio abituale saluto. Un buon proseguimento con Si può fare, caro Alessio, ma soprattutto traffico! Di nuovo buongiorno a tutti, quando sono le 7:49 minuti, ascoltatori, facciamo questo ultimo tratto di strada insieme con la rassegna stampa che ci accompagna fino al giornale radio delle 8, poi la parola a Oscar Giannino. Dal Fatto Quotidiano di oggi, le banche uccidono ancora, un pensionato di 69 anni si spara, aveva perso 400.000 euro di risparmi con il crollo delle azioni, il suo gruzzolo si era ridotto, parliamo della Banca Popolare di Vicenza, a soli 779 euro, con quei soldi voleva pagarsi le cure mediche, il fratello accusa l'istituto di credito dell'ex patron Zonin, è colpa loro, si è finita così, sono peggio dei mafiosi. Leggiamo al 75 di via Borgolecco, la palazzina è di due piani, color giallo, lo sbiadito, l'ingresso è da una piccola corte, la cucina è ad angolo, lo stanzone nel complesso è spoglio, arredi moderni in legno, un tavolo, un divano, oltre a un muretto con un beccaccino impagliato sul camino, la TV, le videocassette, perché qui a Montebello Vicentino il tempo passa lentamente, è qui al secondo piano che Antonio Bedin, 69 anni, mercoledì pomeriggio si è ucciso, poco dopo le 16, sdraiato sul letto. una 370 magnum stretta nella mano sinistra. Così è morto, una fiammata al cuore e quella paura del futuro, dei soldi che non ci sono più, spariti, meglio inghiottiti dentro al conto della filiale della Banca Popolare di Vicenza al 41 di via Marconi, vittima Antonio, come tantissimi qui, della dissennata amministrazione dell'ex presidente dell'Istituto di Credito Gianni Zonini, il ricchissimo doge con la passione per il vino e le feste, che oggi è indagato dalla Procura di Vicenza. Di questo si occupano anche altri giornali, tra cui Repubblica, che riporta l'esito della ispezione degli ispettori della Banca Centrale Europea. Zonin, Sorato, Piazzetta, le colpe dei manager per gli ispettori sono responsabili dei capitali persi nei fondi lussemburghesi e sui prestiti. Morbidamente vi accompagno verso argomenti più leggeri. Oggi alle 15 gioca l'Italia e tra poco sui giornali vediamo la formazione, vediamo un po' come ci avviciniamo a questo appuntamento. Il calcio, l'oppio dei popoli, ma insomma si ride, si scherza e ci si diverte un po' guardando la partita, tutto lì. Sulla stampa di oggi invece si parla del terzo polo televisivo, un argomento, come sapete, che ritorna. C'è l'intervista intanto al direttore generale della RAI Campo Dall'Orto, che parla di alleanza in Europa tra le TV europee per combattere sul mercato globale, ma poi si parla soprattutto di Discovery all'attacco con La 9, il canale posizionato al posto punto numero 9, con Maurizio Crozza, che arriverà nel 2017, Roberto Saviano, Fabio Volo. È questo il terzo polo. Il network scardina gli equilibri del piccolo schermo, aumenta la pubblicità del 18% e si accaparra i big. Succede appunto che gli introiti pubblicitari in aumento del network Discovery, che è quello che è andato meglio tra tutte le gruppi televisivi negli ultimi tempi, consentono adesso di spendere per fare campagne acquisti, prendersi Maurizio Crozza, che dovrebbe fare non soltanto il suo show ma anche una striscia quotidiana in prima serata, e poi arriveranno anche Fabio Volo e Roberto Saviano, che a dicembre replicherà Imagine, il racconto di un anno attraverso le foto. Poi ci sarà anche Max Giusti con un quiz televisivo. E adesso, come anticipato, la Gazzetta dello Sport. Non ci fai paura, Ibra, fatti sotto, l'Italia vuole gli ottavi. Dopo il super esordio, gli azzurri ci riprovano. Qualificazione sicura con una vittoria. Conte, Zlatan sposta gli equilibri, ma noi abbiamo il fuoco dentro e vi spieghiamo come si può fermare. In primo piano le facce di Buffon e di Ibrahimovic, le formazioni, soprattutto quella italiana: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Candreva, Parolo, De Rossi, Giaccherini, Florenzi, Pellè, Eder. E Florenzi sarebbe la novità rispetto alla gara di esordio dell'Italia a questo europeo. Dall'altra parte la Svezia dei vari Larsson, Olsson e soprattutto Ibrahimovic, ma poi c'è lo spazio per l'analisi di questa partita. Tutti per uno, Italia contro Ibrahimovic, Svezia monotematica, via alla gabbia su Zlatan. Poi lanciamo Eder Pellè. Cambio gioco, arma tattica, Svezia chiusa, serve l'ampiezza che è in grado di creare De Rossi. Poi, per l'anticipo, c'è Chiellini, duello fisico di tecnica e arti marziali, preconizza la Gazzetta dello Sport a proposito del duello tra Chiellini e Ibrahimovic, un duello d'altri tempi. Raddoppi e gabbie, Barzagli e Parolo, e questa è la nostra difesa collettiva. Dall'altra parte si annuncia appunto una Svezia monotematica, lanci e cross vecchio stile ma insidiosi, attacco alla nordica, tutti palla avanti e pedalare dietro a Ibrahimovic. Basterà la Svezia per contrastare questa Italia, che per ora potrebbe essere la prima vera sorpresa di questo europeo, mentre la Germania ieri ha perso un colpo, la Francia va avanti a sprombattuto. Vedremo oggi alle 15 il verdetto finale. È tutto, grazie agli ascoltatori, ciao da Alessio Maurizio, grazie Maurizi, grazie a Lorenzo Nespoli in questa settimana insieme, un saluto ad Alessandro Milan che torna la settimana prossima. Vi lascio al giornale radio, poi Oscar Giannino. Ciao, ciao a tutti.